Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. La non programmabilità, o meglio l'imprevedibilità, di due delle principali fonti rinnovabili, eolico e solare, è senza dubbio in prospettiva il principale limite al loro sviluppo. Il problema naturalmente ha una soluzione, che però attualmente è estremamente costosa: immagazzinare l'energia elettrica. Tuttavia la messa a punto di sistemi efficienti anche dal punto di vista economico per immagazzinare l'energia elettrica, qualora disponibile, avrebbe numerosissime altre applicazioni, oltre a questa che riguarda le rinnovabili. Una vi sarà venuta in mente subito: l'auto elettrica, ma ce ne sono molte altre poco note, di cui faremo una panoramica stasera e che potrebbero andare a ingrossare, per così dire, l'onda che sta spingendo tanti soggetti pubblici e privati a investire in ricerca e sviluppo in questo settore. Ne parliamo con il professor Roberto Faranda, docente di sistemi elettrici per l'energia del Politecnico di Milano, che ci aiuterà anche a decifrare un rapporto molto interessante da cui prende spunto questa trasmissione, uscito a febbraio proprio su questo argomento e prodotto dal Boston Consulting Group. Buonasera Faranda. Buonasera, grazie. Dunque Faranda, abbiamo parlato di molte applicazioni, io direi cominciamo dagli usi dello storage, che in qualche modo riguardano gli attori del mondo della produzione dell'energia elettrica e della distribuzione dell'energia elettrica, dove c'è gran parte delle applicazioni dello storage energetico. Beh, intanto una premessa: la funzione dei sistemi di accumulo è unica, nel senso che l'unica cosa che fanno è quello di spostare il carico da un momento ad un altro, quindi riempire i buchi. E la differenza è semplicemente in quanto tempo fanno questa operazione. Detta questa premessa, gli scopi che spingono i distributori, piuttosto che gli attori che governano le reti, a utilizzare i sistemi di accumulo sono il bilanciamento della rete, quindi cercare di appiattire il diagramma di carico in modo da avere una produzione più costante possibile. Cioè qui ci riferiamo al fatto che la richiesta di energia cambia significativamente durante il giorno, e questo comporta dei costi aggiuntivi? Questo comporta dei costi, perché nei momenti di picco devo produrre energia con sistemi di produzione che sono più costosi. Perciò avere la possibilità di non usare loro ma usare dell'accumulo che ha accumulato dell'energia di notte, ad esempio, per produrla di giorno, per usarla di giorno, ovviamente risulta essere economico. Certo, in pratica ci consente di usare sempre di più i sistemi a basso costo e meno quelli ad alto costo, quindi insomma con questo bilanciamento. E quindi bilanciamento, prima applicazione. Poi un'altra cosa è la rendere più costante possibile i sistemi di generazione aleatoria. Nel momento che il sole va via all'improvviso, la rete non vede più questa generazione, deve produrla in qualche altro modo, cioè l'accumulo che fa questa operazione. Un'altra cosa che sicuramente può essere di grande interesse per i distributori, ad esempio, anche dal fatto di poter spostare gli investimenti nella rete di trasmissione e distribuzione, perché avendo la possibilità di avere degli accumuli localizzati potrei fare quella funzione sostanzialmente di peak shaving, che evita di andare in sovraccarico le macchine e le linee, far funzionare la rete con un carico più elevato. Cioè in pratica lei dice che magari in un'area a un certo punto si consuma più energia elettrica, anziché potenziare la rete oppure aggiungere un sistema di generazione, io ci metto un sistema di accumulo che si carica quando la richiesta è più bassa e ancora una volta fornisce energia a quell'area geografica lì, magari quando la linea che è sovraccarica, in sostituzione di sistemi di trasmissione nuovi. L'altra funzione che è in parte già attuale è il servizio di restart, in caso di blackout, la possibilità di avere degli impianti che riescono a partire in modo autonomo. Queste sono le funzioni che sono più di interesse dei gestori della rete. Ecco, poi ci sono le isole, che sono un caso a parte, vero? Sì, allora, le isole ovviamente diventa difficile il trasporto dell'energia, perché spesso non sono neanche collegate con la rete, quindi questo è già un primo problema. Oltre ad avere il problema del trasporto, non ci sono solo le isole, ma in genere ci sono tutte le zone rurali dove non c'è l'arrivo della linea elettrica. In Cina, ad esempio, ci sono diversi esempi di produzione locale tramite sistemi fotovoltaici, eolici, generatori diesel in quel caso. Però meglio ancora potrebbe essere che al posto di un generatore diesel uno mettesse un sistema di accumulo, anche perché i generatori diesel producono energia elettrica ma a costi molto molto elevati, anche un euro a kilowattora si arriva, insomma, a cifre folli. D'accordo. Ecco, e così le baite in montagna, tanto per dire. Insomma, tutte le postazioni isolate in qualche modo. Ecco, invece dal punto di vista di chi consuma l'energia elettrica, dei sistemi di accumulo, che tipo di applicazioni possono trovare? Penso al privato cittadino, penso anche all'impresa. Allora, gli accumuli già sono molto presenti e generalmente sono associati alla continuità del servizio, quindi oggi esistono numerose aziende tipo i data center, gli ospedali, i supermercati che utilizzano già sistemi di accumulo per il loro servizio, quindi hanno necessità di continuità elettrica. Ovviamente non ci sono solo quelle funzioni, ci sono altre che potrebbero interessare anche ad altre persone, come ad esempio il peak shaving. Spieghiamo bene di cosa si tratta, perché è molto interessante questa applicazione. La funzione di peak shaving è una funzione che, ad esempio, mi potrebbe evitare di farmi staccare dalla rete quando assorbo più della potenza richiesta dal contatore. Ho un sistema, in quel momento particolare mi sta andando lavatrice, ferro da stiro e condizionatore. Al posto che staccarmi dalla rete, il sistema di accumulo locale potrebbe produrmi l'energia che serve per evitare di assorbire dalla rete più della potenza contrattuale. Ecco, però si può anche aumentare la taglia del contatore per risolvere questo problema. Certo, però questo ovviamente ha un costo che Infatti. Non è indifferente. Certo, e questo vale a maggior ragione, anche se in forma diversa, anche per le industrie. Sì, per le industrie la cosa è un po' diversa, perché nel caso dell'utente finale c'è il distacco, nel caso dell'industria invece c'è un aggravio di costo della fornitura. In questo caso l'uso dell'accumulo potrebbe permettere di evitare di superare il limite contrattuale con l'ente distributore, però nel contempo evitare di dover staccare le cariche all'interno. E poi consentirebbe proprio di fare dei contratti per delle potenze di picco più basse che fanno diminuire ancora una volta proprio i costi fissi che le aziende... Assolutamente sì. Va bene, grazie Roberto Faranda, ma solo temporaneamente io la lascio andare, perché noi ci risentiamo domani e parliamo invece di tecnologie per quanto riguarda l'immagazzinamento dell'energia elettrica. Va bene, a domani. Allora, per stasera è tutto, arrivederci a domani.